mai possibile che i cancellieri e i segretari dei tribunali non abbiano un computer, diciamo tra virgolette così, dello Stato, cioè debbono lavorare da casa con il proprio computer personale e quindi non riescono ad accedere a tutti gli atti di un tribunale. Ma qui è fantascienza, cioè siamo fuori dal mondo. Signori, per favore, non prendiamoci in giro. È normale che il Covid esiste, è come se esiste. Non permettetevi di andare a Bergamo per dire che non esiste il Covid, per dire. Però è palese, è evidente che ci stanno mangiando sopra, ci stanno speculando sopra, e tanto anche. Sarebbe bello sapere chi ci sta guadagnando in materia di profitto, di denari. Io abito in provincia di Bergamo, ditelo, ma oltre a dirlo, venite qua a dirlo che non c'è stato Covid, venite qua a dirlo davanti a noi. E questa mi sembra la risposta migliore a questo mondo dei negazionisti. Qualche altro ascoltatore ci scrive e dice... Dai, mandateli a fare i volontari nei corsi degli ospedali. Basterebbe vedere nelle immagini, video. Chiedo all'ascoltatore, però se uno dice ci stanno mangiando sopra, mi perdoni, talmente generico, talmente vago, ma che vuol dire ci stanno mangiando sopra? Non vuol dire nulla. Sulla questione dei cancellieri, ne abbiamo parlato prima con Gian Domenico Cagliazza, il presidente delle Camere, dell'Unione delle Camere Penali. Sì, è veramente paradossale, cioè che queste persone non possano accedere agli atti da fuori perché non hanno un computer che gli viene dato dallo Stato che risponda a determinati requisiti di sicurezza in una questione delicata come la giustizia. Io vi ricordo sempre perché... Noi tendiamo ad essere un po' generici su questo, però io vi ricordo che un processo penale di qualsiasi tipo coinvolge direttamente la vita di più persone e quando si protrae infinitamente, lo abbiamo raccontato molte volte, diventa un vero e proprio supplizio. Tanto per i presunti colpevoli che magari sono innocenti, quanto per le forse vittime. Sarebbe da dare un'accelerata. È la seconda parte di 24 Mattino, è venerdì 4 settembre ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti e abbiamo i quotidiani che oggi si dedicano a vari argomenti e le aperture sono tutte un po' diverse. Le uniche forse assimilabili sono quella del Sole 24 Ore e della Repubblica, perché scelgono questa questione della quale già vi parlavo prima, che è complessa ma strategica, che è la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla legge Gasparri. La Corte Europea riapre la guerra, dice il Sole 24 Ore, TV, telecomunicazioni. La Repubblica, l'Europa, legge da rifare su TV e rete unica. È stato accolto il ricorso di Vivendi nella sfida contro Fininvest e sono state bocciate le regole italiane. Il governo, scrivono vari giornali, valuta il rischio di una scalata a Mediaset. Conte si fa il proprio partito. Scrive Libero. La Stampa si dedica a un'intervista a Patuanelli. Via le tasse sugli utili reinvestiti. Il Messaggero intervista invece il presidente dello Svimez, Adriano Giannola, il quale dice: sottratti 60 miliardi all'anno, il Sud deve essere risarcito. Avvenire, e ci arriveremo tra un attimo, è... si dedica proprio a quello di cui discutevamo prima, il contagio dei no, inchiesta sulle falsità dei negazionisti del Covid che conquistano spazio in rete. il manifesto sull'ennesima uccisione di un afroamericano da parte delle forze dell'ordine negli Stati Uniti. Ordinaria follia è il titolo, e la foto è quella del video del quale già vi parlavamo ieri, dell'uomo che muore asfissiato dopo essere stato incappucciato. Il giornale ci parla di Berlusconi, ricompare, grazie Mattarella e Conte è il titolo. Fatto Quotidiano si dedica al referendum, i tre del PD a caccia di 5 Stelle, votiamo sì. Si parla di Gianni Mangialardi ed Emiliano. La verità, un anno buttato col governo Conte è il titolo. Il Quotidiano Nazionale, Berlusconi, sto abbastanza bene. Che è la voce che abbiamo sentito prima, eh? Messaggio audio con la voce stanca, un po' raffreddatino. Test rapidi in tutte le scuole è il titolo del Corriere della Sera. Vorrei iniziare oggi, come vi dicevo, da tutto questo mondo dei negazionisti che si appresta a manifestare nel fine settimana. Mentre qualche ascoltatore ancora interviene su questo, raccontandoci un po' di cose che avvengono su Facebook e su WhatsApp, di cose che girano su Facebook e su WhatsApp. Da dire certamente che questo mondo è rafforzato in questa fase da, come scrive bene Viviana D'Aloiso appunto su Avvenire, che dedica l'apertura a tutto questo e un lungo pezzo a pagina 5, è rafforzato dalle dichiarazioni di primari di grandi ospedali sulla graduale scomparsa del virus, parole che però prestano il fianco alla tesi che il Covid in realtà non è nemmeno mai esistito, oppure è l'altra faccia della medaglia, che qualcuno lo ha creato in laboratorio e lo ha manipolato. Il pezzo di Viviana D'Aloiso inizia in realtà raccontandoci le posizioni di un personaggio che sta piano piano diventando famoso, si chiama Pasquale Mario Bacco, è un medico legale salernitano legato a una società italo-americana che si occupa di sicurezza sul lavoro. Si sa che è vegano, ma si sa poco altro, che a gennaio è comparso su qualche giornale per aver scatenato l'ira del popolo social con un post trionfalistico sulla morte di un cacciatore sardo ucciso per sbaglio dal colpo di fucile di un compagno di battuta. Le dichiarazioni, cosa dice Pasquale Mario Bacco? Niente mascherina perché è un bavaglio. O ancora più suggestivo, in tempi di emergenza sanitaria, perché fa ammalare, ci costringe a respirare la nostra stessa anidride carbonica, ci manda in ipossia, scatena l'acidosi abbassando il pH del nostro sangue e ponendo le basi per lo sviluppo del cancro, raccoglie i batteri e li concentra davanti a naso e bocca, esponendoci a infezioni ben più pericolose del Covid. Questo è uno appunto di questo popolo variegato dei negazionisti. La parola chiave è esasperazione. I morti di Covid, mica uccisi dal virus, che non è affatto aggressivo, ma dai medici che li intubavano invece che curarli con l'eparina per le trombosi o con i comuni antinfiammatori, e che per coprire tutto non facevano le autopsie. Più che un errore sanitario, anzi una vera strage di Stato. Gli stessi eretici arrivano a invitare i parenti delle vittime a denunciare il governo da Conte in giù. E questa è solo la punta dell'iceberg, appunto, di un movimento molto variegato che comprende per esempio una pagina con oltre Facebook con oltre 24.000 membri che si chiama Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria. E questo è il racconto di Viviana D'Aloiso che poi ci porta con pagina che ci porta con Paolo Alfieri su quello che è il movimento negli Stati Uniti, libertari, suprematisti, Novax, una nebulosa aiutata anche dalle giravolte di Trump su questo tema. La questione Covid, dunque, che, come si diceva, resta in primo piano. E a proposito di mascherina, beh, non possiamo non riportare... Oddio mio, questa storia di come ricomincia l'attività scolastica... Signori miei, sta diventando terrificante, perché l'altro giorno, e ne abbiamo discusso da queste parti, ne ha parlato anche Alessandro Milan, lo abbiamo raccontato, c'era l'imposizione di fatto, almeno nelle dichiarazioni che abbiamo letto, a parte del commissario Domenico Arcuri, l'obbligo per tutti gli studenti di indossare la mascherina chirurgica e non quelle di stoffa, quelle che si comprano, il che ovviamente presenta un doppio problema. Da una parte il reperimento costante di questo numero enorme di mascherine, e ritorniamo al problema che abbiamo avuto nel periodo più intenso di Covid, però rafforzato dal fatto che bisogna proteggere centinaia e migliaia di studenti tutti i giorni, e tutti i giorni devono cambiare la mascherina ogni tot di ore, diventa un numero enorme. E dall'altra parte, diciamocelo molto chiaramente e molto semplicemente, che molti ragazzi la mascherina gli piace portare una mascherina un po' più carina di quella chirurgica. So che è un discorso un po' che può sembrare un po' vuoto così, però se è il modo per fargli portare la mascherina, anche quello è un modo per fargli portare la mascherina. Però la polemica era scattata. Ebbene, è arrivata la giravolta del CTS, del comitato, in classe vanno bene tutte le mascherine, tutte quante a questo punto, cioè non solamente quelle chirurgiche, anche quelle di stoffa. Cosa succede? Visto che gli imprevisti sono possibili, ossia non è detto che ci siano le mascherine chirurgiche per tutti, che per una qualsiasi ragione potrà capitare che una scuola resti senza mascherine, nulla vieta di indossare quelle riutilizzabili. L'importante è che ogni giorno le famiglie le lavino e le disinfettino. Per gli insegnanti, invece, l'uso delle mascherine chirurgiche è un obbligo. Qua, lo ricordiamo, dentro la classe, su questo non ci sono state grandi giravolte. Dentro la classe, quando i ragazzi stanno seduti, la mascherina possono toglierla. Quando si alzano in piedi, girano nei corridoi, stanno in giro per la scuola, vanno in bagno, eccetera, eccetera, la mascherina invece la devono indossare. Dai giovani agli anziani, perché La Stampa ci porta invece a pagina 6 su quella che è una svolta attesa da centinaia, da decine di migliaia di persone. La svolta attesa da decine di migliaia di persone, che sono le persone che si trovano all'interno delle residenze per anziani e i loro parenti, coloro che li volevano andare a trovare, i luoghi più a rischio, i luoghi nei quali è avvenuta la strage che spesso abbiamo raccontato. Un dramma familiare lungo 6 mesi, 150.000 anziani che sono ancora isolati, come ci racconta Claudia Luise nel suo pezzo, e però arriva la notizia che c'è il via libera finalmente per le visite, appunto. Nelle RSA, lo racconta Alessandro Di Matteo in un pezzo a pagina 6 della Stampa, come vi dicevo, che mette insieme un po' anche i dati di queste ultime ore. Ogni giorno oltre 1.000 nuovi contagiati, a poco più di una settimana dalla riapertura delle scuole, i dati sull'epidemia confermano la tendenza al rialzo iniziata nei primi di agosto. Ne abbiamo parlato poco fa, lo avete sentito naturalmente anche in GR24. La svolta arriva qua, arriva appunto sulle RSA, perché le strutture senza spazi esterni sono chiuse da febbraio, perché nessuna regione ha voluto rischiare, mi viene da dire, anche giustamente in questo caso. Il figlio di una paziente che parla dice gli effetti collaterali potrebbero essere anche più dannosi del contagio, perché appunto ci sono 150.000 anziani isolati senza poter vedere i familiari sostanzialmente da 6 mesi. Una pausa. Mattino. Ma è possibile che tutte le regole italiane in Europa non vanno bene? Ma com'è possibile questa cosa? Tutte le regole italiane per l'Europa non vanno bene. Come che si guadagna? Scusa, si guadagnate voi che fate terrorismo, che continuate a fare terrorismo per nulla? Come che si guadagna, scusate, ci guadagnate voi giornalisti, perché è molto più facile e semplice fare audience con il terrorismo che dicendo che la situazione si sta calmando e calmierando. Ragazzi, non so nemmeno cosa dirvi. È chiaro che la situazione si sta calmando. È evidente che sappiamo affrontarla meglio di prima. È evidente che però è evidente anche che la situazione si sta calmando, per esempio, perché le mascherine le indossiamo e giriamo con le mascherine. È evidente che la situazione si sta calmando perché i nostri ospedali sono più pronti. È evidente che la situazione si sta calmando perché conosciamo meglio il virus. Ma di qui a dire che non esiste, ma io non lo so, non lo so. E nessuno di noi ci guadagna a fare del terrorismo, eh? Perché guardate che la crisi economica da Covid colpisce tutti indistintamente. Mezzi di informazione come il nostro si basano sulla pubblicità. E indovinate cosa salta quando c'è una crisi economica? Il primo taglio di budget che fanno le aziende? Beh, fatevelo dire dagli imprenditori. Di solito, esattamente, o in gran parte, la pubblicità. E quindi nessuno ha interesse a scatenare la crisi economica e a incrementare gli ascolti senza o i telespettatori o le vendite dei giornali senza averne un ritorno pubblicitario, evidentemente. Abbiamo ieri sui social si è riso molto, si sono fatte mille battute, lo abbiamo raccontato, sulla De Micheli, sulla ministra De Micheli. E in quello che per esempio il giornale con Giuseppe Marino chiama l'ultima follia, una ciclabile sul ponte sullo stretto. Riaprire il dibattito intorno al ponte sullo stretto con un tweet psichedelico è l'ultima impresa del governo affidato a un annuncio del ministro per le infrastrutture Paola De Micheli. Abbiamo istituito una commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria, per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile. 4.000 commenti, una frase che accende la rete, accende internet, decine di prese in giro, Toninelli, esci da questo corpo, e anche un po' di fuoco amico. Il fuoco amico è arrivato per esempio dal ministro Provenzano, dal collega di governo, dal ministro Provenzano. Detto che se tu colleghi con un ponte le due sponde, non si vede per quale motivo tu non debba mettere, se ci metti una ferrovia, a prescindere dal fatto che sappiamo benissimo che il ponte, molto probabilmente il ponte sullo stretto non si farà mai, però a prescindere da questo, nel momento nel quale lo fai, non si vede per quale motivo, in tutta sincerità, non si debba eventualmente metterci anche una pista ciclabile sopra, visto che lo puoi fare e visti i pochi chilometri di attraversamento. Però a prescindere da questo, beh, dicevo, si è riso tanto ieri in rete su questo tema, e però apprendiamo oggi dal Messaggero che tra i progetti presentati da Roma, dall'amministrazione di Roma, per il Recovery Fund, come sapete le città devono presentare dei piani per utilizzare i fondi del Recovery Fund, e quindi del fondo europeo, quello che dovrebbe arrivare dal 2021 in base agli accordi raggiunti appunto a Bruxelles. Ebbene, si apprende che torna in campo la famosa funivia. I romani lo ricorderanno benissimo, fu una delle prime uscite della sindaca Virginia Raggi. A raccontarlo è Marco Simoni della Lewis Business School, che sul Messaggero firma un pezzo dedicato esattamente a questo. Si chiedono 25 miliardi per 159 progetti diversi che spaziano dalla creazione di un rating delle piccole e medie imprese alla formazione innovativa in nuove professioni. Alla funivia Clodio Montemario, Ponte della Musica. Non è uno scherzo, non è uno scherzo. Il Comune di Roma chiede all'Europa i soldi per la famosa funivia, ma il Recovery Fund, o meglio il Next Generation EU, non può essere ridotto a una burla su internet, ma un fondamentale snodo della storia europea, in cui lo sforzo finanziario collettivo deve corrispondere a una presa di responsabilità piena dei territori e delle città, che devono, scrive Simoni, almeno provare ad essere all'altezza. È un momento che definisce un'intera generazione. C'è anche, tra l'altro, ci racconta invece Andrea Marini sul Sole 24 Ore, a pagina 6, c'è anche la Metro D tra i progetti del Comune di Roma. C'è sulla stessa pagina del Sole 24 Ore, fatemi rimanere qua nel frattempo, una questione interessante che è collegata a Roma, ma non solo a Roma, è collegata un po' a tutte le grandi città, ed è in un pezzo firmato da Giorgio Santilli che torna sul tema del decreto semplificazioni. Perché? Perché il decreto legge semplificazioni e l'emendamento di Loredana De Petris e di Leu all'articolo 10 vorrebbero tutelare, cioè blindare, ingessare intere zone delle città italiane che con i centri storici e con i patrimoni di pregio non hanno nulla a che vedere. Soprattutto nelle grandi città, di fatto si chiede di, appunto, di blindarle, di ingessarle le zone omogenee A che sono ampiamente oltre le cinture storiche. E l'emendamento approvato in Senato va addirittura oltre queste zone, definendo confini più incerti con zone assimilabili, nuclei storici consolidati, ambiti di particolare pregio storico e architettonico. Le zone omogenee A, per dare un'idea agli ascoltatori, che forse, soprattutto ai romani, che magari qualche idea ce l'hanno, arrivano oltre il raccordo anulare, fino a Ostia. In questi giorni circolava negli ambienti politici romani una battuta estremamente esagerata ma efficace: per demolire e rifare uno stabilimento a Ostia si dovranno seguire le stesse procedure che ci vorrebbero per buttare giù il Colosseo. Non è male la battuta, da un po' la misura di quello che è successo. Più seriamente, o meglio, non più seriamente, è serissima questa cosa ovviamente, sul tema del Recovery Fund c'è da registrare l'intervista al ministro Patuanelli, intervistato da Alessandro Barbera sulla Stampa, pagina 3, nel quale dice una serie di cose. Dice che l'ecobonus diventerà strutturale, quello famoso del 110%, e annuncia che verranno tolte le tasse sugli utili che verranno reinvestiti nell'azienda. Questo è il progetto di Patuanelli, insieme a quello di estendere la decontribuzione per i lavoratori dipendenti alle regioni del centro-nord. Sono tutti e tre spunti interessanti. Fatemi anche soffermare un attimo sull'ecobonus, perché oltre all'intervista di Patuanelli c'è questo pezzo Niente Male di Marco Lombardo sul Giornale a pagina 8, il quale ci racconta che per ottenere il superbonus per la casa servono 36 documenti, numero 36 documenti, numero che può anche salire ulteriormente. Praticamente una casa di carta, scrive Marco Lombardo. Il conto iniziale è stato fatto all'inizio numerando le categorie, ma come in ogni labirinto che si rispetti, ad ogni bivio c'è un sentiero oscuro. Per dire, documento numero 1, attestato della proprietà dell'immobile. Detto così sembra facile, ma la situazione si ingarbuglia a seconda che, prendete fiato, uno sia davvero il proprietario, il solo detentore, un familiare convivente, un coniuge separato assegnatario dell'immobile, un convivente di fatto soltanto un futuro acquirente con preliminare di vendita già sottoscritto. E là già si prendono vari bivi che richiedono nuova e diversa documentazione, fino ad arrivare a 38 documenti necessari, cita Ennio Flaiano, Marco Lombardo, con questa storiella. Gli presentano il progetto di snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente, ma deplora l'assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto per l'esame dell'ufficio competente, che sta giusto creando traffico. Per chiarire all'ascoltatore, guardi, non si tratta di una difesa della ministra De Micheli, semplicemente non vedo nulla di scandaloso in questa cosa, cioè nel fatto che se tu decidi di realizzare un ponte, come citavo prima il Ponte della Libertà, quello che attraversa la laguna di Venezia, dove è stata appena conclusa la realizzazione di una pista ciclabile, non si vede perché uno non ci debba mettere anche una pista ciclabile, punto. Poi Cioè, si può fare, le ironie van benissimo, sono sempre gradite, figuriamoci se non sono gradite da queste parti. Temone di oggi sul Sole 24 Ore, sulla Repubblica, questa decisione della Corte Europea, decisione della Corte Europea che scatena quello che nel suo pezzo Andrea Biondi, o meglio nel titolo del suo pezzo Andrea Biondi a pagina 3 del Sole 24 Ore definisce il Big Bang su media e telecomunicazioni in Italia. È una questione che incrocia molti elementi, naturalmente la proprietà di Mediaset, la questione della banda larga. E l'altra questione è parzialmente politica, se volete, perché è un po' collegata anche alle vicende di Silvio Berlusconi. I punti chiave sono ben riassunti al Sole 24 Ore, quindi se volete capire qualcosa lo trovate là. La GCOM aveva imposto a Vivendi sanare la sua posizione perché era presente sia in Telecom Italia che in Mediaset, presenza rilevante, fatto vietato dalla legge Gasparri, che vietava appunto l'incrocio tra proprietà di TLC, di telecomunicazioni, e assetti televisivi. La quota era stata congelata, la di Vivendi in Mediaset, aveva fatto ricorso al TAR Vivendi, la Corte di Giustizia Europea, tirata in ballo dal TAR, ha dichiarato la norma contraria alla libertà di stabilimento, e dunque è un risico che si riapre, compreso quello sulla rete in fibra, sulla rete ad alta velocità, partita nella quale Mediaset dovrebbe entrare. Già si parla di possibile modifiche della legge Gasparri, appunto. La politica. Siamo alla politica. Torneremo a parlare di politica tra poco, lo faremo con il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, con Carlo Calenda, in una puntata che oggi dedicheremo alle 8:30 al referendum. E però c'è qualche spunto decisamente interessante su quello che si sta muovendo in una serie di partiti, o meglio, forse al di fuori di una serie di partiti, perché Libero, per esempio, parlando di quello che definisce un delirio di onnipotenza, con un pezzo firmato da Pietro Senaldi, ci dice che Conte si fa il proprio partito. Il premier stufo di Movimento 5 Stelle PD sta per lanciare un movimento catto ambientalista, ex democristiani, grillini delusi, forzisti in disarmo e verdi finiti sono pronti a seguirlo. La mette così giù, un po' brutale, no? Come, cioè, da aspettarsi, appunto, Libero, che con questo governo non è mai tenero. E così racconta dunque Senaldi, il rumor che si fa sempre più insistente trova conferma nel basso profilo tenuto in estate dal Presidente del Consiglio, passato dal presenzialismo più assoluto alla fuga da ogni ribalta e responsabilità proprio nel momento delicato della ripartenza. Che gente ci sarebbe dentro questo movimento? Sono addirittura dei nomi. Alfonso Pecoraro Scanio, ve lo ricordate Alfonso Pecoraro Scanio, storico leader verde? Ci sarebbe Rocco Buttiglione, l'ex segretario del Partito Popolare Italiano. Ci sarebbe l'ex ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, che, come sapete, ha lasciato il movimento. Ci sarebbe Gianfranco Rotondi e, infine, dulcis in fundo, Renato Schifani, ex Forza Italia, ex presidente del Senato, quella che appunto viene definita da Senaldi una DC in salsa ambientalista. Chissà quanto c'è di vero in questi rumor che circolano, chissà quanto c'è di vero nell'altra voce che circola e che troviamo oggi sul Foglio, l'opzione Di Maio, il quale anche lui non ne potrebbe più, anche lui si vorrebbe sganciare dal Movimento 5 Stelle, forse, ma non si sa. E il titolo è: da solo valgo il 10%. Il ministro confessa agli amici di avere un piano. se le regionali vanno male, e beh, appunto, racconta Merlo, si potrebbe mettere da solo. In Veneto non ci va, punta al sud, gira la Puglia e la Campania, e quando i suoi gli chiedono della Liguria fa spallucce. Ma l'avete letta l'intervista di Sansa al Foglio? È l'intervista di ieri, quella che vi abbiamo citato, quella nella quale Sansa, che è candidato del Movimento 5 Stelle, annuncia che è tentato e la sua posizione sul referendum è verso il no. Così Luigi Di Maio, raccolte a Tulipano le cinque dita della mano destra, altalena il pugno nell'ipotesi digito interrogativa tanto in uso presso noi italiani. Io ve l'avevo detto che Sansa non andava bene, non ne voglio sapere nulla. E sarà anche vero che non gli piace il candidato giornalista scelto assieme al PD. Dice però, comunque vada, io da solo valgo il 10%. Dall'altra parte Simone Cannettieri ci racconta sempre sul Foglio che c'è l'opzione Dibba. L'opzione Dibba è questa: sogno di essere nel Movimento 5 Stelle quello che Salvini è stato nel Carroccio, e quindi Di Battista che si metterebbe alla testa del Movimento e lo porterebbe dal 3% al 30-40%, cioè, o meglio, quello che ha fatto Salvini, non dal 3% del Movimento 5 Stelle, non è al 3% adesso, però farebbe quello che ha fatto Salvini, lo porterebbe appunto. Salvini, come sapete, ha portato la Lega al 3%, al 40%, poi adesso incarano i sondaggi, possiamo raccontarci quello che vogliamo, però sicuramente ha avuto un impatto, no, sul partito. Ebbene, Di Battista vorrebbe fare, ci racconta il Foglio, la stessa cosa. Tutti i rumor, tutti i retroscena che circolano, mentre, come ben sapete, siamo qua impegnati a pensare a come ripartire. Ripartire come? Lo smart working. Qua c'è una pagina niente male sul Corriere della Sera, che è pagina 9, che ha due punti centrali. Il primo punto è l'intervista che realizza Margherita De Bac prendendo spunto da uno studio del Ministero del Lavoro e dell'INAIL, intervistando Sergio Iavicoli, direttore del Dipartimento Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro Ambientale dell'INAIL e membro del CTS. Secondo l'Istat, quasi un terzo delle forze lavoro potrebbe stare in ufficio a distanza, 4 milioni oltre nelle professioni che richiedono supervisione, 2 milioni tra quelle ad elevata autonomia. Racconta ancora Iavicoli che si sono registrate punte del 90% nelle amministrazioni centrali e del 74% nelle regioni. Anche qua sulle pubbliche amministrazioni bisognerà vedere, già ne parlavamo prima, quanti effettivamente abbiano davvero lavorato. Quali sono le criticità? L'isolamento e il mancato coinvolgimento aziendale. Mancano un po' di cose perché diventi una modalità sostenibile da tutti i punti di vista. E c'è un altro punto che secondo me è interessante, è quello che ci sottopone Rita Guerzè, sempre sulla stessa pagina del Corriere della Sera, ed è qual è il punto? È il caso della quarantena. È vietato accendere il computer dall'ufficio. Cosa succede? Succede questo, che sono alcune migliaia, ma potrebbero diventare molti di più. Parliamo dei cosiddetti asintomatici, gli italiani che hanno trovato il modo di convivere con il Covid senza grattacapi per la salute. Non appena il tampone dà esito positivo, scatta la quarantena per evitare la diffusione del contagio. Quarantena con le mani in mano. Per i positivi al Covid-19, infatti, è vietato lavorare. Sempre. Anche da casa, anche per chi è del tutto senza sintomi. A disciplinare la questione sono i decreti Cura Italia e Rilancio, poi convertiti in leggi, oltre al messaggio INPS del 24 giugno e del 7 agosto del 2020. Aziende con dipendenti asintomatici disponibili a lavorare da casa si sono rivolte a noi per avere chiarimenti, ma la nostra risposta, stante la normativa attuale, non può che essere no, non si può fare, racconta Cesare Pozzoli, partner dello studio legale milanese Chiello Pozzoli. Stessa risposta dato a Solombarda alle imprese che chiedevano chiarimenti. Se all'inizio della pandemia i tamponi venivano fatti solo a chi aveva sintomi, oggi sono sempre più utilizzati per arginare i focolai in via preventiva. Insomma, Rita Guerzè ci dà un po' quest'idea. pensate, e ve la butto là, se veramente dovessimo arrivare all'ipotesi Crisanti, ossia 400.000 tamponi al giorno, e dovessimo trovare frotte di asintomatici, che cosa potrebbe succedere? Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo, come vi dicevo, per parlare anche di politica, ma di referendum, e non solo di quello, con Federico D'Incà e Carlo Calenda, e ovviamente col nostro Paolo Mieli, che ritroviamo tra un attimo.